Dico brevemente due cose, ripetendo, magari ribadisco ancora una volta il concetto che è già stato espresso da tutti i compagni e compagni, che comunque questa iniziativa su Smart Cities Palestina non vuole essere ovviamente, non vuole mettere sullo stesso piano ovviamente la violenza e le vessazioni che si subiscono lì con quelle che potremo e stiamo subendo qui. Chiaramente vuole creare un parallelo su altre. Su altri punti, diciamo, chiaramente lì le tecnologie che abbiamo visto nei filmati e che, di cui abbiamo parlato finora sono state fino da 80 anni a questa parte utilizzate per mantenere l'apartheid, la discriminazione del popolo palestinese. Adesso negli ultimi 2 anni anche per il genocidio, per lo sterminio vero e proprio, l'intelligenza artificiale, che è un mezzo che ha reso possibile moltiplicare gli obiettivi possibili da colpire. Anche qui ribadisco quello che è già stato detto, che comunque i parametri secondo i quali il Vangelo, diciamo, questa intelligenza artificiale sceglie se validare gli obiettivi, sono stati scelti politicamente a monte da esseri umani. Quindi chiaramente dopo il 7 ottobre l'intelligenza artificiale in altre forme da Israele era già stata utilizzata per i bombardamenti e per la creazione di obiettivi. Chiaramente dopo il 7 ottobre la necessità di obiettivi è molto più ampia dal loro punto di vista, nel senso che la necessità di sterminare indiscriminatamente è diventata molto più ampia, e quindi i controlli che l'intelligenza artificiale fa sugli obiettivi hanno dei parametri molto più bassi, per cui basta che ci sia il sospetto di un, come lo chiamano loro, terrorista in un edificio, che viene colpito tutto l'edificio, anche se ci sta una famiglia dentro e persone che non sono direttamente coinvolte in queste supposte attività terroristiche. Però chiaramente ricordiamoci sempre che quando parliamo di Israele non parliamo di qualcosa di staccato e di diverso, ma parliamo di un avamposto occidentale, in particolare americano, l'abbiamo detto più volte, è un laboratorio di esperimenti, di sperimentazione del controllo della guerra e dello sterminio, ma è un avamposto occidentale in quel territorio lì. Chiaramente da noi queste tecnologie per ora vengono utilizzate per controllo sociale e gentrificazione, quindi sono sicuramente un incremento per la gentrificazione. Pensiamo alla ZTL di Roma, chiaramente la ZTL di Roma sarà una grande zona verde, come la chiamano loro, in cui potranno entrare soltanto quelli che rispetteranno alcuni parametri che sono molto costosi da rispettare, per cui chiaramente chi avrà una macchina vecchia non potrà entrare, la dico molto brevemente senza approfondire. Chi può permettere 80.000 euro di Tesla potrà entrare, facendo anche pesare agli altri il fatto che lui è più ecologico. Ovviamente sono ironico, perché ovviamente 80.000 euro di Tesla non ha niente di ecologico, e quindi, diciamo, ponendo alla popolazione e soprattutto a chi dovrebbe occuparsi di lotte su questo territorio, un grosso problema di classe, perché ovviamente quando già tramite gli affitti e tramite altri sistemi la popolazione povera veniva espulsa verso l'esterno della città, adesso abbiamo anche questo motore che sicuramente accelererà il processo, insieme a tutti, appunto, gli altri strumenti di controllo di cui abbiamo parlato. Ci tengo anche a precisare una cosa che, vabbè, tenevo a dire prima che ci sciogliamo. Diciamo che questa iniziativa che abbiamo portato adesso a Centocelle non è la prima che facciamo sul tema della Smart City, non è la prima volta che leviamo il tema, noi come Assemblea Romana contro il Green Pass, intendo, non è la prima volta che leviamo il tema della Smart City al tema della Palestina. In realtà abbiamo proiettato già in un'altra iniziativa dei materiali simili. No, ci tenevo a ribadire, diciamo, il concetto che questa iniziativa su Smart Cities e Città dei 15 minuti noi lo portiamo in un momento storico in cui la repressione agisce anche tramite decreti, tramite il decreto sicurezza, e la repressione interna è assolutamente funzionale a tutte le guerre che vengono portate all'esterno, per cui volevo sottolineare l'importanza che queste trasformazioni, delle nostre città, del contesto urbano, smart cities, città dei 15 minuti, sia assolutamente funzionale chiaramente al controllo interno, quindi l'irrigidimento, l'intruppamento, diciamo, interno e la militarizzazione del territorio. Per cui adesso il compagno diceva del gemello digitale di Bologna, adesso lo faranno anche qui. Sappiamo che la NATO ha investito tanto in progetti di analisi di scenari di guerra asimmetrica in contesto urbano, quindi diciamo non solo lo stiamo vedendo, diciamo, nei vari teatri di guerra che attraversano anche le città, ma insomma la prospettiva in futuro è questa. Quindi diciamo se ci sono questi strumenti legislativi, per cui adesso ci sta un decreto che prevede delle pene veramente spropositate per reati che una volta erano considerati veramente minimi e che soprattutto riguardano tantissimo le lotte sociali, e che quindi diciamo io parlo di occupazioni abitative, blocco stradale, ma ci sta tanto altro, adesso non volevo parlare del decreto sicurezza, ma chiaramente questa repressione di vecchio stile chiaramente viene in un momento storico in cui è necessaria per portare la guerra all'esterno, in cui le spese militari vanno ad aumentare da qui nei prossimi 10 anni a nel caso italiano quasi a triplicare, ma comunque tutta la NATO va in quella direzione, oltre ad allargarsi geograficamente, perché poi negli ultimi 2 anni si è allargata geograficamente, va anche ad aumentare il livello di armi che vengono prodotte, che verranno prodotte, quindi possiamo immaginarci soltanto un futuro di guerra da qui ai prossimi anni, e pensare, parlare di smart cities e città dei 15 minuti, secondo me ha soprattutto anche questo senso, nel senso che tutti noi che facciamo politica militante dovremmo esserci più o meno accorte che la nostra città è disseminata di occhi, diciamo questi video che vediamo in Palestina sono particolarmente emblematici e significativi, ma chiunque di noi si sarà accorto che dal momento in cui esce di casa, per tutti gli spostamenti che fa sia a piedi che in macchina, che sui mezzi pubblici che sono pieni di telecamere, è costantemente monitorato in diversi modi, quindi col telefono, con le telecamere visive e con GPS di vario tipo, con l'internet delle cose 5G e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo rende chiaramente difficile qualsiasi tipo di mobilitazione. Quello che volevo dire a tutte e tutti e tutti i presenti è che per qualunque tipo di mobilitazione, anche specifica, futura, che si vorrà mettere in campo in ambito urbano, secondo me non si può assolutamente più prescindere da questi discorsi qui, cioè dal prendere atto della trasformazione che le nostre città stanno subendo. Per cui continuare a fare finta che queste tecnologie non vengono implementate a ritmi esponenziali e che vengono usate contro di noi, fa sì che noi poi andremo cioè la gentrificazione purtroppo riguarda anche le lotte, cioè c'è una gentrificazione delle lotte, per cui le lotte non vengono spostate sempre più verso la periferia. E quindi noi, se non vogliamo trovarci fra poco tempo a manifestare sotto 1 miliardo di telecamere da la metro Rebibbia, metro Pontemamolo o da Sette Camini a Sette Ville, dovremo cominciare a investire seriamente su questi argomenti che sono ancora poco conosciuti e poco sentiti da molti compagni e compagne. Aggiungo, scusate, l'ultima cosa prima di chiudere, che domani c'è un appuntamento a Strike, invito a tutte e tutti quelli che possono a venire, che anche lì si parlerà di come vengono trasformati i quartieri, in particolare popolari, e visto che insomma mi sembra il caso di rilanciarlo, visto che abbiamo questa occasione, e visto che si va verso l'estate, e visto, scusate la ridondanza, ma visto e considerato tutti i problemi che periodicamente l'estate e non solo questa città affronta, diciamo, quindi incendi, blackout, sgomberi, chi più ne ha fine meta, e diciamo sarebbe bello che l'estate, oltre a essere calda per il clima, fosse anche un po' calda di lotte, di cose, non sarebbe male. Grazie a tutte e a tutti di questo incontro. L'Italia si sta facendo carico di processare al posto di Israele, a cui ha negato l'estradizione. Non sta andando così male come ci eravamo prefigurati, però ci fa un breve... Sì, no, breve aggiornamento. Il processo, come non mi dilungo ripercorrendo tutti i passaggi del processo, anche per chiudere, però questo processo, appunto, che vede imputati tre palestinesi con l'accusa di appoggio alla resistenza in Palestina, iniziato il processo il 2 aprile, ora ha avuto già diverse udienze, sta andando abbastanza bene, nel senso che pare molto lacunosa tutta quanta la tesi dell'accusa, che non riesce, continua a non riuscire a dimostrare il fatto che ci sia stato un superamento di quello che il diritto internazionale umanitario ritengono legittimo in termini di resistenza, anche di ricorso alle armi in un contesto di occupazione militare, perché è un diritto riconosciuto anche, appunto, dal diritto internazionale, scusate il gioco di parole, per cui a fronte, appunto, di queste lacune che non riescono a colmare, il processo sta andando abbastanza bene, nonostante non sia stato dato alla difesa la possibilità di ascoltare quasi tutti i testimoni della lista testi che era stata presentata nell'udienza del 2 aprile, che contava oltre 47 testimoni, ne sono stati accettati 3, per cui sta andando in una buona direzione il processo. Purtroppo siamo convinti che comunque, essendo un processo dettato, un'indagine dettata palesemente da parte di Israele, ci sia comunque un rischio di una condanna quantomeno in primo grado. Per questo riteniamo sia importante provare a puntare per quanto possibile l'attenzione su questo processo e sulla mobilitazione che lo sta affiancando, per cui l'invito è per il 9 aprile, cioè ci sarà un presidio davanti al tribunale. Il 9 luglio, mercoledì, ci sarà un presidio davanti al tribunale in concomitanza con l'udienza, che dovrebbe essere l'udienza in cui verranno ascoltati i testimoni, e pare si andrà a sentenza a settembre, per cui l'invito è quello a partecipare laddove possibile alle iniziative su questo processo e sulla repressione che sta colpendo anche in maniera più ampia tutto, anche il movimento di solidarietà con la Palestina, e ovviamente nelle prossime settimane, anche in vista dell'udienza a settembre che andrà a sentenza, ci saranno dei momenti di mobilitazione anche qui a Roma, per cui si invita a diffondere, girare e partecipare. Grazie tantissimo.